forma. Sto chiuso in questa camera con il trauma di non sentire più quello che dico. Tutto ciò che scrivo, che ammiro, il pianeta grigio e Beniro. Io nel mirino, il padrino, figo, bicolore tipo dalmata. Resto a tavola, tiro i conti di una vita nostalgica. Sempre in mezzo a tanta gente, ma resto solo. Qui capiscono soltanto il mio dono, perdono. E trascurano il peccato dell'uomo. Mi confondono per ciò che non sono, tralasciando quella parte migliore di me, quella a cui non serve chiedere il perdono. Verso sangue su ogni mia traccia, trappole in ogni trama. Filantropo su una biro, voglio la fama. Tante le volte dove non ci sono conclusioni. Voi campioni, io umile ma ricco di delusioni. Volesse da Biggie Song, volesse bruciassi bombo, volesse scedai di Lord, volesse. Volesse capiare lo stungo, volesse cagnare sto mondo, volesse fermarsi ora, un giù. Volesse da tutto noi e volesse che stivo ad una capestra che non sono solo creature. Ma ogni volta che c'è prova resto deluso e capisco che sta vita è tutto un abuso. Ho fatto tanti passi solo per tornare indietro, sparo tipo veliero, sudo come un guerriero. La mia vita gira su una pellicola in bianco e nero, la guardo seduto ma qui non c'è nessuno, solo il clero. Il credo, tengo stretto un vangelo, chiedendo a Dio per chi mi ha lasciato cadere solo in quest'inferno. Gesù guardandomi mi dice, tu vai avanti, scrivi sempre le cose giuste e portatele dentro. Verso lacrime di cristallo, mi credi non è uno sballo, ma è stato sul piedistallo. Ci ho fatto il callo, più antico di un manufatto, pugni stretti, denti cobalto. Mi sento vivo, solo sul palco, sapete qui nessuno mi porta a galla. Perché per questi rapper rappresento una vera minaccia. Sono cresciuto al sole e non in una serra, e su quel Vesuvio ho baciato più volte la terra. Volesse da Biggie Song, volesse bruciassi bombo, volesse scedai di Lord, volesse. Volesse capiare lo stungo, volesse cagnare sto mondo, volesse fermarsi ora, un giù. Volesse da tutto noi e volesse che stivo ad una capestra che non sono solo creature. Ma ogni volta che c'è prova resta deluso e capisco che sta vita è tutta un abuso. Un movimento è planetario, sta vita è come a scaletti nubulare. Curto e chi ne merda, brutto e chi ne guai, ma l'affronto sorridente perché mi piace assai. Si macchini refietto, sì, ma brillamma come stella e mi fa paura che la non sento. Stanotte non mi mettere in dolietto e mi gusto che sto silenzio in un poeta che non tiene niente. Volesse capire chi sono, volesse bruciassi bombo, volesse scetare chi loro, volesse. Volesse capire lo stungo, volesse cagnare sto mondo, volesse fermarsi ora, un giù. Volesse da tutto noi e volesse che stivo ad una capestra che non sono solo creature. Ma ogni volta che c'è prova resta deluso e capisco che sta vita è tutta un abuso. Volesse capire chi sono, volesse bruciassi bombo, volesse scetare chi loro, volesse. Volesse capire lo stungo, volesse cagnare sto mondo, volesse fermarsi ora, un giù. Volesse da tutto noi e volesse che stivo ad una capestra che non sono solo creature. Ma ogni volta che c'è prova resta deluso e capisco che sta vita è tutta un abuso.